Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. È venerdì e al venerdì è immancabile l'appuntamento con i nostri amici dell'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. E allora Gianluca, se ne è già parlato in qualche modo, no? Poi questa è una cosa che è variata nel tempo. Una volta le fatture arrivavano a un mese, poi soprattutto con la telefonia cellulare si è passato a fare le fatture a 28 giorni, poi le cose erano cambiate anche per altre tipologie di mercato. Adesso tiriamo un po' le fila di questo argomento. Sì Francesco, diciamo che forse possiamo tirare un sospiro di sollievo e bisogna dire che insomma il pressing fatto dagli utenti, dalle associazioni, dei consumatori penso che abbia sortito l'effetto sperato, ovvero questa famosa fatturazione a 28 giorni che avevano cominciato alcune compagnie telefoniche e poi insomma in parole povere era diventata la formula utilizzata da tutte le compagnie in una specie di cartello, si stava allargando anche alle televisioni a pagamento, alla pay per view e insomma questo tipo di metodologia tra virgolette truffaldina con ogni probabilità insomma verrà eliminata e si tornerà finalmente alla fatturazione mensile dal 2018. Se ne stava parlando da tempo, c'erano dei problemi per la definizione appunto del provvedimento che avrebbe tolto questa possibilità, pare che adesso ci sia l'accordo definitivo, quindi pensiamo che appunto la legge di bilancio per quanto riguarda il 2018 prevederà appunto l'impossibilità per le compagnie di fare tariffazione ogni 28 giorni. Ricordiamo che questa metodologia che in parole povere aveva aumentato dell'8,6% i costi degli utenti, anzi di quasi il 10%, e sostanzialmente aveva aggiunto una mensilità da pagare per gli utenti, era stata definita un po' da tutti come una metodologia scorretta che andava anche contro insomma agli interessi un po' di tutti, degli utenti in primis, tranne appunto che per le aziende. Ora staremo a vedere cosa succede, siamo convinti appunto che si tornerà finalmente alla fatturazione mensile o ogni due mesi o ogni tre mesi, insomma a seconda di quello che decidono le aziende. Ciò che è sicuro insomma che si va a togliere questa antipatica, odiosa fatturazione, si va ad abolire questa antipatica fatturazione a 28 giorni. Diciamo che in teoria il provvedimento che dovrà essere emanato ha delle caratteristiche che a qualcuno non piacciono, tipo la possibilità comunque di fare delle fatturazioni sotto il mese per alcune promozioni, si capisce che in questo caso qualche azienda potrebbe utilizzare qualche scamotage per mantenere appunto la fatturazione a 28 giorni, però insomma diciamo che sono già segnali molto positivi quelli che finalmente ci sia stata una protesta generale contro una decisione che andava contro gli utenti. Quello che diciamo Francesco però, e l'abbiamo anche sottolineato in questi giorni tramite le nostre dichiarazioni del nostro Presidente, è che questo non basta in questo mercato, sia nel mercato delle utenze telefoniche, sia nel mercato della vendita appunto di contratti di gas e luce. Lo abbiamo detto più volte, abbiamo raccontato molte storie anche attraverso il tuo programma, le situazioni da risolvere sono tantissime. Se abbiamo protestato per la tariffazione 28 giorni, dobbiamo alzare la voce anche per tante altre situazioni, come per esempio quello che sta succedendo proprio nella vendita dei contratti di luce e gas, ne abbiamo parlato già altre volte, ovvero il marketing selvaggio che sta veramente creando problemi, ma veramente problemi e disagi a tante famiglie, e che al di là di essere tartassati da continue telefonate o da visite in casa di venditori porta a porta appunto di contratti di luce e gas, oltretutto l'abbiamo già detto più volte, si vanno a stipulare contratti o telefonici o in casa a gente molto anziana che non sa neanche quello che sta firmando perché è comunque abituata a tutt'altro mercato e a tutt'altro tipo di offerte. Certo Gianluca, proprio per questo, guarda, mi è capitato giusto ieri di seguire una telefonata di qualcuno che dall'estero cercava di carpire il PUC della bolletta, che è il codice privato che conosciamo solo noi, proprio per magari riuscire a cambiare un contratto dell'energia. Ecco, questa tua testimonianza, per la quale in realtà noi ne abbiamo moltissime altre chiaramente che ci capitano nella nostra associazione, fa capire come al di là dei metodi di vendita che noi riteniamo scorretti, anche se per certi versi illegali, qua invece l'esempio che fai te, ma ne abbiamo tanti anche noi, anche di contratti fatti stipulare a persone decedute, l'abbiamo raccontato durante la vostra trasmissione, qua stiamo parlando di situazioni di illegalità. Allora, invitiamo tutte le persone che dovessero vivere questo tipo di situazioni, anche situazioni antipatiche, tipo appunto il contratto fatto firmare all'anziano padre, all'anziano nonno in modo scorretto, invitiamo tutte le persone a segnalare, oltre chiaramente all'associazione dei consumatori, anche alle autorità che si occupano di energia e di comunicazioni, perché quantomeno le segnalazioni servono per combinare delle multe a queste aziende, che insomma, sappiamo che quando si parla di soldi solitamente è il modo migliore, insomma, per farti sentire anche da queste società. Quindi hai fatto molto bene, Francesco, a ricordare queste situazioni, denunciamole all'Adicom, Corecom, insomma alle autorità competenti, perché queste autorità appunto hanno la possibilità di combinare sanzioni. E speriamo almeno che almeno tramite le sanzioni si arrivi a poco a sistemare un mercato che a noi in questo momento sembra un po' fuori controllo, perché ricordiamo, Francesco, che nel 2019 ci sarà la totale liberalizzazione dei contratti di luce e gas, e in questo momento noi rileviamo che le situazioni in questo settore sono molto gravi, perché il mercato è completamente deregolamentato e le vittime preferite purtroppo sono le persone anziane, che in questo mercato non ci riescono proprio a stare, non lo capiscono e insomma gli si crea molta confusione. Quindi bene l'abolizione delle tariffe a 28 giorni, ci auguriamo che il governo e chi è competente in materia si muova anche in altre direzioni, perché veramente rileviamo una situazione di disagio generalizzato. Per tutte le vostre ulteriori domande, avete dubbi, insomma, potete visitare il sito dell'Associazione Difesa Consumatori, www.associazionedifesaconsumatori.it, dove trovate poi i numeri di telefono e i contatti. Grazie a Gianluca Codognato, ci ritroviamo martedì prossimo. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.